L'ultimo giorno dell'anno c'era un caldo che si moriva, qualcuno che non capiva e qualcun altro che non capiva. C'era uno che gridava e uno che lo guardava, ed un fotografo fotografava quello che c'era sulla strada. L'ultimo giorno dell'anno ci fu logica costernazione, con la logistica in affanno per la mancanza di soluzione, all'eccesso di affollamento nello strazio di quella piazza, progettata in un altro tempo, progettata in un altro spazio. L'ultimo giorno dell'anno chiuserò tutti i collegamenti per evitare le interferenze, per prevenire gli incidenti, come nel caso della ragazza con un orecchino al naso. Glielo strapparono dalla faccia e non ci fecero più caso. L'ultimo giorno dell'anno c'era un caldo che si moriva, qualcuno che veniva e qualcuno che partiva, o stavano sognando che si erano addormentati, si svegliarono tutti quando arrivarono i blindati, avvicinandosi all'ingresso come formiche in processione, dirette lentamente verso le spoglie di un calabrone. Qualcuno provò a chiamare aiuto, ma non c'era più il segnale. Li presero tutti in un minuto, a parte una che sulle scale guardava la scuola che crollava e tutti i quaderni volare via. Ed un fotografo fotografava la sua ultima fotografia. Professionisti a completare l'operazione, per quelle facce da Gesù Cristi e per un'altra conversazione. Marciavano come dei soldati che cantano marciando, sembravano tutti un po' stonati e si zittirono al comando. E allora l'uomo senza volto, che tutti chiamavano col cognome, disse al popolo in ascolto: è il popolo che lo vuole. L'ultimo giorno dell'anno insanguinarono la prigione, fecero uscire gli imbianchini e chiusero dentro le persone, compresi zingari felici venuti lì da chissà dove. E poi passarono le vernici e cancellarono le prove. Thank you. papà della rabbia.